Allora, ecco un riassunto veloce su Via Etnea, la strada principale di Catania. Provate a immaginare. Una linea retta di 3 chilometri che taglia in due il cuore della città, con lo sguardo sempre puntato sul vulcano da cui prende il nome, l'Etna. Primo punto, la sua origine. È incredibile, sapete. Nasce da una catastrofe. La strada fu tracciata subito dopo il devastante terremoto del 1693 che rase al suolo la città. Fu il duca di Camastra a progettarla come l'asse portente della nuova Catania, unendo Piazza del Duomo dritta verso l'Etna. Infatti, all'inizio si chiamava Via Duca di Uzeda. Secondo, è un vero e proprio museo a cielo aperto del barocco siciliano. Passeggiandoci si è circondati da palazzi nobiliari, ben 7 chiese, inclusa la Basilica della Collegiata e ovviamente il Palazzo degli Elefanti, che è la sede del municipio. Non a caso veniva soprannominata il Salotto di Catania. E infine il terzo punto. Oggi Via Etnea è tutt'altro che un pezzo da museo. È il centro nevralgico della vita moderna, la principale via dello shopping. Quasi tutta pedonale e pavimentata con la pietra lavica dell'Etna. È sempre affollata di giorno e di notte, piena di negozi, ristoranti, pub, c'è sempre vita. Insomma, Via Etnea non è solo una strada, ma la spina dorsale che lega insieme la storia, l'architettura e la vitalità quotidiana di Catania.